A bordo campo di Dario Ricci. Diario Mondiale. Un amore così grande, un amore così, tanto caldo dentro e fuori intorno a noi, un silenzio breve e poi la bocca tua si accende un'altra volta. Un amore così grande. Dovresti farla grande. Adesso allora ricominciamo subito. Amici di A Bordo Campo, Diario Mondiale, questa lo sentite già dalla voce del mio ospite. Oggi puntata straordinaria, d'eccezione. Allora riprovo subito. Un amore così grande. Ecco qua. Allora io questa nota, come avete capito, l'ho presa così così perché cantante non sono, ma secondo me la prendi meglio di me. Però adesso il ragazzo che è qui al mio fianco, secondo me la prende un po' meglio. Vogliamo fare una prova? Adesso, tipo un po' la veloce la facciamo, sì, siamo in sì, Brasile. Bravo, bravo, un po' la veloce. Poi un diciamo... amore così grande. Non si dirà grande, però ci piace. Si dirà grande, ma ci piace parecchio. Giuliano San Giorgi, ciao. Negramaro. Ciao a tutti, ciao. Un bel saluto che arriva da Natal. Come avete capito, puntata straordinaria di A Bordo Campo, Diario Mondiale. Parliamo di pallone e musica con la voce e la musica di quello che è l'inno della nazionale italiana. Direi, Giuliano, una bella responsabilità vi siete preso questa volta, accompagnare gli azzurri in questa sfida. Ce l'hanno data, te la prendi, no? No, è stato bello perché Radio Italia, insieme a FIGC e alla nazionale, a Sughera, ci hanno un po' investiti di questa responsabilità. In realtà non l'abbiamo sentito come una responsabilità, cioè delle cose belle non si può avere una responsabilità, se no, come dire, e quando ti dicono quando mi hanno detto la prima volta che suonavamo a San Siro, ma non avete paura di suonare a San Siro, ma che è una guerra? No. Ma scherza, magari capitasse tutti i giorni. Fondamentalmente se circondiamo di nero tutte queste cose belle, allora inizi ad avere paura, allora diventa tutto così un po' pesante. Invece no, ci hanno chiesto questa cosa per la seconda volta, tra l'altro. Questa volta c'è stata un'idea di omaggiare l'Italia e la nazionale con un brano della tradizione, tra l'altro, riproponendolo, visto che Meraviglioso era stato comunque una... In realtà è tutto molto più casuale di quello che sto raccontando, però quando Ermanno, il bassista, ha detto secondo me ce l'abbiamo il brano, io gli ho risposto fatti tuoi, cioè nel senso io non lo scrivo, non lo so, non saprei in questo momento. In realtà era giusta l'intuizione, perché secondo noi in questo momento serviva proprio un inno, un omaggio alla nazionale che guardasse alla migliore italianità, soprattutto della nostra tradizione, perché magari è un momento critico proprio per la nostra nazione, quindi è più un, come dire, un'esortazione a guardare nella nostra tradizione la grandezza italiana, la grande bellezza italiana, riproponendola oggi in chiave moderna, come possiamo fare. Sì, noi. Recuperando un po' anche le radici della nostra musica popolare. Sì, è un ritorno al futuro e dire che forse non è così. Cioè, è stupido secondo me fare. Non stupido, non sarebbe stato nel nostro caso idoneo fare un inno che ammiccasse alla musica brasiliana. Cioè, volevamo portare la nostra. Tu stai tirando una frecciata a Emischilla, no, la guerra degli inni. No, che poi via Twitter allora, già. Uno, sta cosa dei duelli fa ridere, l'Italia, questa battaglia degli inni fa ridere. Noi abbiamo fatto un omaggio proprio per FIGC, per la nazionale, insomma, Emischilla ha fatto il suo lavoro con Sky, e, insomma, Mina per la Rai, insomma, ed è tutto bello, è bello che ci sia tutto questo movimento musicale e artistico intorno al calcio. A noi ce l'hanno chiesto, l'abbiamo fatto e ci è piaciuto farlo. Di duelli parlano gli altri, non mi sembra. Io volevo dire che semplicemente abbiamo insistito su una cosa che secondo noi è un fattore determinante, cioè l'italianità è importantissima, cioè abbiamo il fattore X nostro, che quando vai il Brasile a portare i mondiali ci sarebbe piaciuto raccontare meglio quella che è stata l'Italia, che è e che sarà. Cioè l'Italia sta iniziando ad avere, sicuramente parlavi di Emischilla, ma di tanti altri rapper, ma ha avuto già grandi principi il rap in Italia, non è questo solo il momento in cui tutto viene a galla, insomma Però avremo il modo e il tempo che anche il rap, in cui il rap diventerà questa tradizione. In questo momento ci sembrava che opportuno, cioè, non si era aperto questo. No, assolutamente sì, secondo me è una fase importante anche per il rap, mi piace tanto. Io per dirti, a 8 anni il primo disco che ho comprato era Public Enemy, Don't Believe the Hype, Run DMC. 8 anni avevo, 3.700 lire di 45 giri mi raccoglievo per comprarmi MC Hammer, per cui sono cresciuto. Per dirti, il primo pezzo di nostro di successo, Mentre tutto scorre, ha una parte rap importante, no? Quindi siamo molto vicini al rap, ci piacciono tutte le espressioni d'arte che riguardano soprattutto il rap, perché comunque riguardano un flusso di energia molto forte. A proposito di energia, ti chiedo, prima volta che vieni qui in Brasile? Te lo chiedo perché di solito il viaggio in Brasile per un musicista è un viaggio di formazione, no? Perché la musica è parte del body language delle persone, della cultura, si parla cantando e ballando. Ecco, pensi che da questa immersione potrà nascere qualcosa? Io credo che il viaggio in Brasile sia fondamentale per tutti, soprattutto per un'Italia che ha dimenticato che nei momenti, diciamo, non così felici bisogna guardare anche ad una dignità di famiglia, di popolo, che abbiamo salda veramente noi come popolo italiano, cioè meno cinismo e più unione, no? Come dire, sarebbe bello. Io credo nell'Italia che ho conosciuto fino ad oggi, e che magari in questo momento sta ammiccando verso altri confini, ma non deve perdere di vista la possibilità di sorridere anche nei momenti in cui, non sorridere così in maniera stupida, no? La stupida allegria non serve a nulla, però sorridere un'intelligente leggerezza che dovrebbe affrontare in questo momento per, credo, e ce la faremo, risollevarsi. Non parlo della nazionale, parlo proprio dell'Italia. Il Brasile ha dei contrasti fortissimi, per cui appena sono arrivato ho avuto una sensazione veramente, un affresco fortissimo. Hai dei colori vivacissimi e dietro anche dei colori tanto scuri, però passando attraverso la città, partendo dall'aeroporto, arrivando al centro, passi tutte le fasi della città e una cosa resta: la dignità del popolo brasiliano, che secondo me è molto unito. Lo avverti per le strade, lo avverti nei sorrisi, lo avverti in quello che un bambino riesce a darti, ed è fantastico. Per cui, siccome siamo molto vicini a questo popolo, a questo tipo di popolo, secondo me dobbiamo soltanto ricordarci quello che siamo. Ecco perché Un Amore Così Grande 2014 per noi aveva un senso forte. Poi l'abbiamo trasformato, tra l'altro abbiamo unito, diciamo, all'idea di al sogno d'arte, di musica e calcio, un'idea di aiuto nei confronti della ricerca, no? Contro la SLA, la sclerosi multipla, per AISM e AISLA. Questo fa di quella canzone, a prescindere dai mondiali, una cosa grandissima, cioè che ci unisce, rimane un po' come patrimonio. Alla fine bastava solo il ritornello per questi mondiali, Un Amore Così Grande, cioè proprio. E devo dirti che quando l'abbiamo cantato in Piazza Duomo di fronte a 100.000 persone, tra l'altro l'autore Guido Maria Ferilli, anche lui salentino e non lo sapevamo, mi ha chiamato per dirmi: in tanti anni questo brano era stato cantato da grandi voci, che rimangono grandissime voci e liriche, che non mai, alle quali mai potrei essere accostato come voce, e soprattutto irraggiungibili, restano delle versioni irraggiungibili. Noi con i nostri limiti, tra virgolette, del tempo le abbiamo riproposte. Però la cosa bella, e chiudo, la cosa bellissima è stata che Guido Maria Ferilli mi abbia detto al telefono quella sera: sentire 100.000 persone in Piazza Duomo cantare Un Amore Così Grande a squarciagola, senza avere paura che dall'altra parte stessero interrompendo un cantante lirico o tenorile incredibile, anzi potevano interrompermi a iosa, e come ha sdoganato il pezzo, e quindi si può cantare, ed è si può, ecco, c'è la giusta leggerezza che accompagna un inno. E ti chiedo, da questo tuffo nel Brasile, da questa realtà, dal punto di vista musicale, pensi che rimarrà qualcosa nelle vostre sonorità? Io amo Caetano Veloso, per dirti. E ti pare poco. Per dirti, altro paradosso, in Brasile avrebbero dovuto affidare l'inno mondiale a uno come lui, o a Jennifer Lopez. Sì, no, nel senso che sicuramente lo dico io, dai. Però no, lo posso dire anch'io. Mi sarebbe piaciuto avere un inno mondiale di Veloso. perché per me è una delle voci ed è un artista incredibile. E, tanto ieri sera, non so se c'eri, però così strempellando... per la... Ci hai regalato un live non però da poco. Amo quel pezzo, Cucurucucu Paloma, per me, anche perché mi ricordo un momento particolare della mia vita in cui entravo a casa, ero piccolissimo, ascoltavo i Doors, i Deep Purple, suonavo la chitarra elettrica, ero... quindi proprio lontanissimo da Cucurucucu Paloma, no, qualcosa del genere. Sento questa voce mentre mio padre e mia madre guardavano il concerto in TV. Tra l'altro era un concerto bellissimo, forse era anche in Italia, ripreso in Italia. Basta, sono stato segnato a vita. Senti, adesso un amore così grande diventa anche il vostro tour che finirà tra l'altro a Lecce, un Lecce che ha sfiorato la promozione in B. Il tuo cuore è salentino, sì, no? Insomma, giallo-rosso. Chiaramente per... non sono un tifoso, ma per appartenenza, diciamo, un sano campanilismo ogni tanto è sano. Sì, mi dispiace, però insomma anche lì c'è, no, c'è tempo, è un gioco, bisogna, credo che sia il momento di alleggerirsi. Sì, finiremo allo stadio Via del Mare, cominciamo il 5 luglio da Cattolica, passeremo per Piazza del Popolo come headliner, l'Hard Rock Calling. L'anno scorso siamo stati piccoli pesci, come dice Leone Storiatese, al festival a Londra con Bruce Springsteen e altri, e quest'anno invece siamo gli headliner in Piazza del Popolo con grandissimi artisti dall'Europa, bellissimi anche dall'Italia. Poi ci saremo all'Arena di Verona il 13 luglio, il giorno della finale. Ah, caspita, quindi non è che lo montate il maxi schermo? Sì, assolutamente, o si fa prima il concerto dopo, non c'è problema. Si vede la partita. No, e poi finiremo la Via del Mare, finalmente torniamo a Lecce, allo stadio, e quindi da San Siro abbiamo cominciato esattamente un anno fa e finiamo, chiudiamo il tour, e questa anche l'avventura di una storia semplice si chiuderà a Lecce per poi darci un breve tempo. Beh, allora un grande in bocca al lupo per questo tour, complimenti per l'inno, e chiediamo anche un ultimo regalino per i nostri ascoltatori, qualche nota a piacere che sicuramente sarà gradita. Un po' di pizzullo, no? Che cosa potrei farti adesso? Vabbè, me la chiedi tu una cosa, no? No, me la devo inventare io. Una tipo dicen que por las noches no más se le iba puro llorar. Bravo, bravo, applausi da tutti, da tutti gli ascoltatori di A Bordo Campo Diario Mondiale. E in bocca al lupo, in bocca al lupo Giuliano, e a voi Negramani. Ciao a tutti. A Bordo Campo Diario Mondiale. Bordo Campo Diario Mondiale. Puntata musicale per A Bordo Campo Diario Mondiale. Siamo qui a Natal, Casa Azzurri, appuntamento davvero particolare perché fra poco sentiremo una voce che ci riporterà una grande canzone della musica della tradizione italiana reinterpretata, riascoltata. E allora, nostra ospite Maria Carfora, che ci regalerà una canzone davvero particolare, vero Maria? Eh sì, diciamo che è una canzone che è veramente tanto tanto conosciuta in Italia e nel mondo, però la versione che appunto sto per cantare è un inedito, perché è interamente in lingua brasiliana e riprende un po' le sonorità della samba, e tra il samba e il bossa nova, quindi è un po' rivista, diciamo, ha degli arrangiamenti, ha un arrangiamento un po' particolare. Quindi quando di Tony Renis la sentiremo e la interpreti in modo del tutto originale, anche come omaggio al Brasile che sta ospitando questa Coppa del Mondo. Sì, sì, certo, sì. Ovviamente Forza Italia, sempre. Vabbè, quello è sicuro. Senti, cosa lascia in un artista il contatto col Brasile, con la musica brasiliana? È la prima volta che vieni in Brasile tu? Allora, è la prima volta che vengo in Brasile e l'aria che si respira sarà un po' anche per i mondiali, è piena di energia. È un popolo veramente che anche con tante difficoltà riesce a sorridere, e questo è molto bello. Sei appassionata di calcio? Ti piace? Io ho sempre seguito la nazionale, amo il calcio e tifo la Salernitana e sono una simpatizzante per la Roma. Ah beh, quindi insomma direi che il legame col Brasile parte da Falcao ad arrivare a Maicon, non mancano i campioni brasiliani in giallo-rosso, eh? Certo, sì, infatti sono tanti e sono molto bravi, perché proprio i giocatori brasiliani sono bravi. Senti, nella musicalità, nella tua crescita artistica, questo contatto con la cultura brasiliana, con la musica brasiliana, che segno lascia? Guarda, è una bella fusione, perché io nasco come cantante lirica, quindi mi sono approcciata alla musica a uno stile molto classico. Poi ho anche fatto delle esperienze nel jazz e nella musica pop opera, ma ho sempre amato anche i ritmi un po' caraibici, un po' appunto del samba. Quindi questa è una nuova esperienza, però è bello perché ti metti in discussione cantando delle cose nuove. Senti, come mai la scelta di questo grande successo di Tony Renis? Perché è un successo che la mia mamma mi cantava quando ero bambina e mi è rimasto in testa da tanti anni. È sempre stata un po' una canzone che io ho adorato, diciamo. E quindi riproporla in brasiliano mi piaceva l'idea di non fare una canzone magari scontata, ecco. Senti, un'altra domanda sugli inni del mondiale. Ce ne sono tante, a partire da quelli dei Negramaro, dei Emi Schilla, di Mina. Sei fatta una tua classifica ideale? Oddio, questa è una domanda un po' scomoda, perché per me gli artisti sono tutti bravi allo stesso livello e sono tutti diversi, mettiamola così, quindi a me piacciono tutti. Bene, allora un grande in bocca al lupo per questa quando firmata Tony Renis. Ecco, senti, i prossimi progetti, perché questo è un passaggio importante, ma poi altri ce ne saranno, anzi forse questo viaggio in Brasile è un po' un catalizzatore, una rampa di lancio, no? Sì, allora io continuo con l'attività lirica perché comunque è quella che mi ha dato, diciamo, la base. E quest'estate sarò a Catania con la Micaela nella Carmen, diretta dal maestro Alberto Veronesi. Però allo stesso tempo sto preparando un progetto, ho in progetto un disco con sonorità molto particolari, ma questo sarà tutto da scoprire nei prossimi mesi. Beh, una sorpresa, ti chiedo ancora però, questo passaggio dalla lirica alla musica più popolare dal punto di vista tecnico ti crea delle difficoltà oppure è una bella digressione sul tema? No, non mi crea difficoltà, perché io ho sempre cantato un po' tutti e due i generi, quindi sono sempre stata vicina molto al mondo appunto del musical, del jazz, quindi non è una cosa che tecnicamente mi disturba, mettiamola così, mi diverte anzi, perché mi mette in condizione di provare sempre su me stessa delle cose nuove, anche tecnicamente, e poi ovviamente le cose vanno fatte sempre con un po' di intelligenza, scegliere delle cose adatte alla propria voce, quello è importante, non massacrarla, diciamo, non chiedere troppo. Dal Brasile cosa ti riporterai come esperienza e anche come esperienza canora musicale? Beh, da un punto di vista professionale sicuramente per me è un grande trampolino, una grande opportunità, perché comunque associare un evento, una canzone ai mondiali è sempre una cosa molto importante, quindi sicuramente sono contenta, sono entusiasta, sono anche abbastanza onorata di far parte di questa grande famiglia, diciamo. E poi per quanto riguarda il Brasile in sé, mi porterò via il sapore della frutta, che io adoro e che qui è buonissima, e lo sguardo delle persone, che comunque è bello, ti rimane dentro, perché nonostante la sofferenza che gli vedi negli occhi, c'è la forza e la voglia di insistere. Me diz quando vai chegar. Me diz quando, quando, quando. Vejo só o tempo passar e eu aqui a te esperar. Fico ouvindo o coração dizer quando, quando, quando. Quase sinto suas mãos. que vi uma canção, uma canção do DDP. É o som de lata, é o som de tambor, pegada do pique do sul, dando a gogô. Eu sei que você me ama, mas eu sei que você me quer. Não precisa falar várias vezes, colocando o Vaticano, samba brasiliano. Vocês estão querendo, vocês estão gostando, na pegada do hip hop todo mundo vai gostar. Me diz quando vai chegar. Me diz quando, quando, quando. Porque eu sinto que esse amor nunca mais vai me deixar. Vejo-te a correr. Logo, logo vai passar. E eu aqui sem saber. Quando, quando vai voltar? Fica ouvindo o coração. Dizer quando, quando, quando. Quase sinto suas mãos simplesmente me tocar. Me diz quando vai chegar. Toma a confissão, uma regra, você tem um bom. Me diz quando, quando, quando. Canção, uma canção de reggae. Porque eu sinto que eu sou pegada do refígio do sudão do agogô. Maria Carfora, boa sorte, mi viene da dire. Obrigada.